Bido, sedicesima puntata. Gentili signore e signore, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a Radio Bidon, la vostra trasmissione di approfondimento sul Tour de France 2016 preferita. No, fermi tutti. Che succede? Che è successo? No, questo è Bonjour Bidon. Ed è il 2017. Tra assolutamente, l'altro. Io sono Angelo Trofa. E io sono Leonardo Piccione. Ma la sorpresa che avrete dedotto è che a fianco a noi, in corpore presenti, c'è anche... Lo stacchetto. No, lo stacchetto incarnato, ovvero Filippo Cauz. Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti a Bonjour Bidon, allora. E possiamo garantire che ha un corpo, noi lo vediamo, per voi è comunque voce, ma da oggi in poi sarà con noi anche Filippo. Niente non... più telefoni, niente più voci gracchianti. Assolutamente, una voce gracchiante ma col corpo intorno. Ed è questa la novità dell'ultima settimana che aspettiamo con trepidazione per capire insieme chi sarà il vincitore. Tu lo sai? Hai un'idea, Angelo? Chi guadagnerà il trono di giallo, visto che... L'attualità è incombe. L'attualità incombe e anche la nostra puntata. Iniziamo! Vai! E benvenuti, oggi è la nostra 16ª puntata, noi siamo sempre qui in diretta da Cagliari, sono le 11:08. Avresti mai pensato di arrivare a 16 puntate, Angelo? No, guarda, io me li sento come se fossero 16 anni queste 16 puntate. E avresti mai pensato di andare in diretta da Cagliari? In diretta da Cagliari abbastanza, voi l'avreste io... mai detto? No, sinceramente no. Quindi da oggi con noi c'è anche Filippo, quindi Filippo, che hai fatto ieri nel tuo primo giorno a Cagliari? Sono andato al mare, cosa dovevo fare? Assolutamente. Sono arrivato apposta nel giorno di riposo per andare al mare. Per aderire a tutti i cliché e siamo andati al Poetto. Mentre invece il nostro Leonardo Piccione ci ha mollato per andarsene. Io sono andato un po' più lontano, sono andato dalle parti di Villa Simius, perché ormai comincio a conoscere la zona e vado a scegliermi i posti migliori, no? È sardo ormai Leonardo Piccione, da ora in poi il sardo in sardo lo farà lui. Parla anche sardo, di un no, termine questo, sardo che hai imparato questo, a parte a io non so dire molto altro. Vabbè, già una cosa io. Ma noi cominciamo a parlare della tappa di domenica, perché ieri era il giorno di riposo e ci siamo riposati anche noi, ma abbiamo ancora da vedere cosa è successo domenica. E si è successo un bel po' di cose, mi sembra. E quindi, anche se è qui con noi Filippo, è il momento di far partire lo stacchetto di Filippo e della tappa di domenica. Dunque, domenica una tappa, diciamo, ambigua da interpretare, che però qualcosa ci ha detto in chiave dell'ultima settimana, ovvero abbiamo visto la Sky che a inizio della tappa ha cominciato col suo classico treno e questo strappetto, anzi più di uno strappetto perché mi sa che erano 8 km sulle quali si prometteva battaglia, e un po' battaglia, almeno il caso ha fatto in modo già che prima ci in fosse. Realtà dello strappetto la Giudeser aveva cominciato a fare un po' di danni. Anni, però poi sulla salita sono successe tante cose, tra cui l'incidente di Froome, il mancato fair play, ma comunque ne parleremo meglio tra un po'. Assolutamente, per esempio cominciamo subito a vedere cosa ci ha detto quest'ultima tappa, quella di domenica, in chiave di classifica generale. Froome fora e Landa lo aspetta, Filippo. No, beh, no. Froome fora e Landa resta in gruppo fino a che Froome non è praticamente rientrato nel gruppo. Esatto. Adesso noi non abbiamo modo di ascoltare quello che si dicono nelle radioline della Sky, per cui non sappiamo esattamente il mandato che è stato dato a Landa, però sicuramente Landa non è stato tra i gregari che sono tornati ad aspettare Froome, giustamente. È stato richiamato negli ultimissimi metri, quello che abbiamo visto è che la Sky comunque è assolutamente compatta e Froome, che sicuramente non ha le gambe che aveva fino a 2 anni fa, perché già anche l'anno scorso non aveva queste gambe straordinarie, ha una testa, una prontezza e una squadra che lo stanno tenendo al comando in pieno merito, in maglia gialla, come te oggi, oltretutto. Ma non è messo male però Froome, l'ho visto abbastanza bene, non è che pedalava male, o sì? No, Froome pedalava bene nel senso... Bene non pedala mai. Però dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia della sua pedalata, sta tornando a livelli, ai suoi soliti livelli. Secondo me l'ho visto molto meglio nella scorsa tappa, perché ha recuperato insieme ai suoi compagni 50 secondi. A un certo punto quelli davanti, che erano Bardet, Aru, Froome, tutti tranne lui, avevano 50 secondi di vantaggio. Froome prima con Henao, poi con Nieve, è riuscito a recuperare nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora. E questa è la chiave alla fine della tappa di domenica scorsa, che poteva essere la tappa che per Froome chiudeva il tour, invece non l'ha affatto chiuso, cioè davanti ci sono tre uomini della Jeux Desert che tirano e invece dietro i due della Sky, prima Henao e poi Nieve, vanno più forte, andavano più forte di Gauthier, di Villermoz e di chi altro c'era, di Latour probabilmente. E questa è la chiave, Nieve in questo tour sta andando fortissimo e Landa lo sappiamo, ne parleremo adesso. Henao sta andando forte e Kwiatkowski non ne parliamo. Cioè, questa è la chiave alla fine di tutto. Poteva finire il tour di Froome, invece è più che mai primo e con la mente e il corpo al massimo della condizione. Comunque, Froome fora e davanti però tirano la Jeux Desert, niente fair play domenica. Ma loro avevano iniziato già prima la loro azione, quindi intanto già siamo d'accordo tutti, credo, sul fatto che il fair play in certe situazioni davvero è superfluo parlare, non ha senso parlare di fair play. A maggior ragione in una situazione in cui tu già stavi portando avanti un'azione, l'incidente di Froome accade durante, nel bel mezzo di questa azione forse già programmata dalla Jeux Desert, quindi non si pone nemmeno il problema, come giustamente sottolinea anche il nostro Giuseppe su Facebook, ancora con sto fair play. Guarda Giuseppe, noi siamo d'accordo sul fatto che non serva parlarne, grazie a Dio anche nei fatti domenica scorsa abbiamo visto che in certi casi il fair play proprio non ha senso, non si pone la questione. No, si pongono due problemi, uno è squisitamente tecnico, ovvero com'è possibile che Froome ha un problema tecnico ogni volta che gli avversari attaccano? Questo è interessante. Su cui non so se dobbiamo parlarne con Pinarello, con Campagnolo o con chi altro, però evidentemente, peraltro, problemi tecnici di cui non si capisce mai la natura. In questo caso ha anche cambiato la ruota, però tante volte si firma e poi riparte, insomma, ha un grande tempismo nei problemi tecnici. L'altro discorso è che poi quello su cui si è parlato questo giorno di riposo è stato un giorno di discussione, probabilmente, su quanto gli altri, i suoi avversari, che è vero che non hanno tentennato per il fair play come altre volte, però forse non hanno neanche dato la botta definitiva, esatto, che avrebbero potuto dare in quel momento. E qui il discorso è se insomma, come avranno dormito Aru, Bardet, Uran e Martin, restringiamoli a questi, Landa lo lasciamo come sempre da parte, dopo una giornata in cui Froome stesso ha detto che pensava di poter perdere il tour. Esatto, perché lì il discorso sarebbe stato, una volta rientrato Froome, scatta una ripetizione tutti i suoi avversari per metterlo in difficoltà dopo che lui ha fatto uno sforzo così grande per rientrare. Non è successo, cioè, ha fatto uno scatto Bardet, ma poi nessuno ha replicato a Bardet, né Aru, né Uran, né Martin. Forse tra questi Uran, secondo me, era quello che doveva provarci con maggiore convinzione, perché Bardet aveva i suoi compagni di squadra, giustamente voleva tenerseli per la parte finale della tappa. Aru è in una fase abbastanza di difesa in questo momento, dopo il giorno difficile che ha avuto a Rodez. Uran e Martin probabilmente erano quelli che in quella fase della salita forse avevano maggiore interesse e maggiore possibilità di mettere in difficoltà Froome. Non l'hanno fatto, Martin l'ha fatto poi più avanti nel finale di tappa, ha guadagnato quei suoi 14-15 secondi che male non fanno, però certo non lo rimettono totalmente in corsa per vincere il Tour de France. Sì, forse resta un'occasione persa, vedremo se comunque lo sforzo che ha fatto la Sky, che ha fatto Froome, poi lo pagherà nei prossimi giorni. Comunque, come suggerisce il nostro Dimitri, nessuna pietà per Froome, soprattutto quando ha difficoltà, questo è quello che stavate invocando anche voi. Però Martin uno scatto l'ha fatto, una ottima condizione, sì? Sì, Martin c'ha voglia, più che condizione, anche la condizione, Martin, ma c'ha una gran voglia. Il corridore Martin è questo è quello che può riuscire a fare, non ci si può aspettare l'impresa in montagna. Daniel Martin non l'ha mai fatta e probabilmente non la farà mai, perché ha dei limiti fisici che lo obbligano a questo. Sicuramente sta provando a star lì, anche perché è un Tour de France così talmente racchiuso e ravvicinato che anche per corridori non certo eccelsi da un punto di vista tecnico e fisico c'è la possibilità di ottenere un risultato sorprendente. Sì, il Tour de France più chiuso della storia dal punto di vista della classifica, o più aperto sarebbe il caso di dire, perché sono i primi quattro in 30 secondi, non era mai successo nella storia del Tour de France, quindi... Tra questi quattro c'è anche Aru, una cosa sua, certo, va detta ogni giorno, perché sennò, ragazzi, non usciamo dalla radio qua. Ma anche perché sta facendo un grande tour Aru, e va detto. Poi adesso, ripeto, forse è entrato in una fase diversa del suo tour, non è più quello che attacca sempre lì vispo e vivace, si sta un po' controllando maggiormente, e speriamo che torni a essere quello di inizio tour nei prossimi due giorni, perché se vuole vincerlo ha bisogno di attaccare. Comunque, dopo la tappa di domenica, ricordiamo, vinta da Baucomen Le Mans, non l'abbiamo neanche detto. Lo nomineremo tra poco, è tutto però l'ha vinta un altro. L'ha vinta il grande Baucomen Le Mans. Con Thomas De Gendt in fuga, diciamolo, che sì, c'è questa è una novità, novità anche sì. quella. Abbiamo però poi il giorno dopo, il giorno di riposo, che è il giorno che anche noi aspettavamo, sinceramente. Sì, con grande ansia. Eravamo stanchi anche noi, e sul giorno di riposo è per l'appunto l'osservazione che ci ha avviato il nostro Elio Turnartemalle, che vi ricorderete ci manda sempre un'espressione, un detto in sardo, visto che noi siamo a Cagliari, per raccontarci parallelamente il Tour de France. Quello di oggi è per l'appunto un proverbio, un modo di dire che appartiene al passato di Elio, che viene da un quartiere popolare, quello di San Michele a Cagliari, e ci racconta cosa succedeva a San Michele tra i venditori nel giorno ambulanti. Di riposo? No, è sul riposo. È sul riposo, ascoltiamo. Andiamo il sardo in sardo. I venditori ambulanti che tenevano alto il prodotto interno del mio quartiere con le loro bancarelle di frutta, di scarpe, di pesce, di fiori, di trovarobato illegale, scandivano il tempo della loro giornata intessendo tra loro due modelli relazionari complementari e opposti. Riuscivano a odiarsi sinceramente e arrivavano persino all'arma bianca, inteso in senso non metaforico, se la concorrenza diventava particolarmente sleale. Ma bastava l'arrivo di un vigile urbano, di un nuovo venditore, di una generica minaccia comune, che un attimo dopo diventavano un gruppo coeso, fraterno, cooperante ed efficiente come una muta di segugi alla posta. Passata la minaccia, ricominciavano, in un'alternanza eterna e sfiancante. Alla fine di ogni giornata erano comprensibilmente distrutti. Il saluto, al momento di andar via, era «Buonanotte, buon riposo, crasa mangiano papaya arroso». «Buonanotte e buon riposo, domani mattina mangeremo del riso». Il riso è un augurio di successo, di abbondanza, e in quel caso era un augurio sincero. Tanto più che dopo la fatica fatta per cooperare con l'avversario o far guerra all'amico, che son poi la stessa cosa, da dove può arrivare il giusto ristoro e la speranza di un giorno migliore se non da un meritato riposo? Angelo, devo dire che Elio riesce sempre a centrare il nocciolo della questione, perché oggi ha parlato, grazie a questo detto, del cooperare con l'avversario. Assolutamente. Che è quello che dovrà succedere nei prossimi giorni se qualcuno ha realmente intenzione di ribaltare la classifica di questo tour. Cooperare con l'avversario e poi augurarsi buona fortuna a vicenda. Assolutamente, così come ci auguriamo tutti quanti di mangiare riso domani, come dice il detto, perché significherebbe per noi vedere un Tour de France entusiasmante che entra finalmente nell'ultima settimana. Ma a proposito di questo, diteci voi cosa vi aspettate da quest'ultima settimana. Commentate un po' la nostra trasmissione, qual è il vostro favorito. Ormai siamo agli sgoccioli di questo Tour de France. Voi ci chiedete a noi dove attaccano, e noi chiediamo a voi chi attaccherà e chi vincerà il trono di giallo. Visto? Pronostici e speranze, ci vanno bene anche le vostre speranze. Anche quello. Comunque, il giorno di riposo, sì, risaputamente è un giorno di annunci, di divertimenti e di amenità che noi possiamo scrutare nelle vite dei corridori grazie ai social network e grazie alla nostra rubrica. Oh, la mia preferita. Sì, è la tua, con lo stacchetto più bello della storia. 5T dalla corsa. Che meraviglia quando parte questo stacchetto. Gli uccellini, vero? Ti piace? Sì, sì, sento. Lo so, sono in molto pace orgoglioso con la natura e col mondo. Il primo cinguettio del quale parleremo è quello della Sky, anzi della Cannondale. Team Cannondale, certo. Ho sbagliato squadra. Dove ci mostrano John Kerry, il segretario di Stato. Ex segretario di Stato americano, attivista, impegnato per i temi ambientali soprattutto, che è stato ospite della squadra. Ha tenuto un discorso prima della tappa di domenica scorsa nel bus della Cannondale e ha ispirato i corridori della Cannondale. Hanno detto che è stato di grande ispirazione, ha detto qualcosa del tipo: le cose sono impossibili finché non le realizzi. Questo tour detto da lui che perse le elezioni mi sembra un'ottima ha realizzato una cosa abbastanza così. Dopo questo discorso i corridori della Cannondale hanno preso le loro astronavi e sono andati a combattere gli alieni. No, questo discorso e questa frase ci fa parlare un attimo di Duran, che davvero sta facendo qualcosa di impensabile, forse non impossibile ma impensabile all'inizio del tour. Sta lottando per vincerlo, è più vicino alla maglia gialla di quanto non lo sia mai stato Quintana nelle ultime stagioni. No, e oltretutto da solo, perché si parla tanto di Aru abbandonato dalla Astana, ma Uran, c'è il buon Bettiol che sta facendo un gran lavoro e ha sempre quel cappellino indietro, ma per il resto sta facendo un gran lavoro in questo tour. Però per il resto è spesso da solo il buon Uran, e a differenza, diciamolo, di Aru, anche l'altro giorno da solo si era cavata alla grande senza perdere vero nulla. E chissà che John Kerry sia. John Kerry che era già venuto al tour in supporto ad Armstrong. No, non si può nominare, non si può nominare, non esiste Armstrong. No, sempre su Uran concluderei dicendo che ieri in conferenza stampa Froome ha detto che lo considera il suo rivale più pericoloso, proprio perché è questo dark horse, questo cavallo nero, sì, vuol dire l'outsider della situazione. Aru e Bardet in qualche modo se li aspetta e sa cosa possono fare. Su Uran sa poco, immagina poco delle sue strategie. E comunque i cavalli tornano come tema di narrazione a questo punto di questo Tour de France. Un cavallo di razza è anche il protagonista, e che cavallo, altro che questo, un carro armato. Il nostro Tony Martin, che è il protagonista dell'immagine Instagram della Katiuscia, che ci rivela una verità che noi abbiamo sempre sospettato, cioè ovvero che Tony Martin è Terminator. È un'immagine dove metà faccia è Tony Martin, l'altra metà faccia è un robot, cosa che noi sapevamo in realtà. C'ha qualcosa di non umano questo qui, perché quando l'azione che ha fatto nell'altro giorno ha preso un minuto, su 5 minuti ne ha presi uno al gruppo dei fuggitivi in pianura. Potrebbe anche essere Robocop, che lui era un altro di quelli che faceva il poliziotto prima di fare il corridore. Vero, sì. E invece dopo i poliziotti e i robot arriviamo al momento tenerezza del 5T della corsa, perché è un video che noi vi suggeriamo di andare a cercare su Instagram, pubblicato dal vincitore di domenica, Bauke Mollema, che riproduce la figlia di Mollema che vede il padre in televisione. Riconosce il padre in televisione, la fase finale della tappa quando lui vince. Noi volevamo farvi ascoltare l'audio di questo video, però Angelo ha dimenticato di estrapolare l'audio da questo video e quindi adesso ci riprodurrà dal vivo l'audio della figlia di Bauke Mollema che esulta la vittoria del padre. Sì, assolutamente. Prego. Lo farò immediatamente. È il seguente. In inglese però. No, diceva dad. Sì, non lo so, forse dice papà. Mormorava. Sarà in olandese. Perché sarà in olandese, immagino. Come si dice papà in olandese? Qualcuno ce lo dica. Commentate sotto la nostra diretta. Pare tra l'altro che l'azienda degli orologi sbagliati del Tour de France stia ingaggiando anche questa bambina per la prossima. È più simpatica della nostra. Tutti i bambini del mondo sono più simpatici della nostra. Comunque abbiamo un'altra immagine, sempre relativa al giorno di riposo. Abbiamo due protagonisti. Abbiamo niente meno che il nostro Alberto Contador e Descanso con il mio amico Jarlinson Pantano, ha scritto Contador. Stanno molto bene tutti e due su questo sdraio al sole, e chissà che non siano loro tra i grandi protagonisti dei prossimi 2 giorni sulle Alpi. E Pantano si è visto un po' poco, a dire la verità. Lui il descanso l'ha iniziato a Düsseldorf. Sì. Ma magari in questi 2 giorni tutti e due decideranno il tour, non per la vittoria di Contador, ma per chi si porteranno dietro in qualche attacco. Ma io non so se decideranno il tour, però devo dire che la tappa di domenica mi ha fatto vedere un Contador diverso rispetto a quanto ho visto sin qui nel Tour de France. Si dice sempre la condizione che sale, che scende, anche questo non lo sappiamo mai. Mi sembra però che Contador avesse una gamba ben differente. Assolutamente. Direi che è stata la sua miglior performance in questo tour, è stata la tappa di domenica, forse anche meglio di quando è andato in fuga. Sì, perché è rimasto nel gruppo dei migliori senza mai soffrire, con lucidità, con agilità. L'abbiamo rivisto veramente agile come qualche anno fa. Speriamo che duri e che ci possa regalare un'ultima settimana di fuochi d'artificio. Lui ha rilasciato grandi interviste anche ieri durante il giorno di riposo e vuole vincere una tappa sulle Alpi, chissà. E non si sa ancora se questo è il suo ultimo tour. Ieri girava anche questa voce, pare abbia confidato a qualcuno di aver deciso per la conclusione della sua esperienza. Quindi questo è l'ultimo Tour de France della sua carriera, però sono voci che circolano, non c'è nessuna conferma. Certezza invece ci dà la Astana, che pubblica sempre su Instagram uno spunto spuntino, come si dice qui in Sardegna, cioè birra e patatine per il giorno però di riposo. Però non è un'icnusa questa birra della Stana, sarà una birra kazaka. No, l'ho vista ieri, credo che fosse belga, una birra preparata per i ciclisti da un'azienda belga, non sono sicuro però. Patatine, cos'altro vedi? Salatini, noccioline, un camion, insomma. No, roba non salutare, no, speriamo che non succeda oggi qualcosa come è successo a Dumoulin dopo la grigliata il giorno prima dell'Umbra e il Pass. No, non dico niente, però andiamo avanti. Condividiamo con loro un po' lo stile del giorno di riposo. Io con Vinokurov condivido un sacco di cose, tra cui anche l'alimentazione, direi. Oltretutto mi confidò una volta un kazako che ho conosciuto parlando di Astana, che, così torniamo al tema di questa trasmissione, di questo Tour de France, loro, quando dopo tutte queste sbronze belle e intense, per riprendersi ricorrono esclusivamente al latte di cavalla. Ah. Latte di cavalla? Ce lo procureremo anche noi, sì, per riprenderci da Bonjour Bidon. Intanto Lorenzo Biasini ci dice che dall'italiano all'olandese babbo si dice vader, però non mi sembra che la bimba dica vader. No, mi sembra di no. Però come... quindi Darth Vader era il babbo oscuro. Sì, infatti è un po' uno spoiler del finale della del terzo episodio, te lo dicevano già dal secondo, nome. Effettivamente. Comunque, andiamo avanti con un altro tweet molto particolare, perché giorno di riposo si danno annunci, e l'annuncio in questo tweet dell'abbandono di Zubeldia. L'abbandono nel senso che si ritira dopo la classica di San Sebastian, credo, il prossimo autunno. E come l'ha annunciato questo ritiro, Filippo? L'ha annunciato in stile completamente zubeldiano, ovvero nel modo più anonimo possibile. Ha fatto un tweet con uno screenshot di un PDF, peraltro con un font minuscolo e dei bordi grigi di bianco, una cosa che neanche, non so, i burocrati di Futurama. E lui ha fatto la foto col suo cellulare al computer, tipo, e ha twittato la foto fatta al computer, meraviglioso. Per non trascriverlo, per dai. Non meraviglioso Zubeldia. Stiamo parlando di Zubeldia, di un uomo che dell'anonimato ha fatto una ragione di vita. Ha fatto una gran carriera. E quindi si ritira e, come scrivevamo, adesso si apre un varco nel mondo del ciclismo. Chi sarà il nuovo Zubeldia? Chi sarà il corridore che si piazzerà sempre e non vedremo mai? E che correrà, quanti sono? 16, 18 Tour de France ha fatto con questo? 16 forse, vabbè. Comunque bravo Zubeldia per la carriera e per il tweet. Invece un'altra immagine Instagram, sì, pubblicata dal Kness, da Christian Kness della Sky, che si è dimenticato del giorno del suo anniversario di matrimonio. L'ha scritto: oggi è il mio anniversario di matrimonio e praticamente l'ho dimenticato. Mi dispiace, chiedo scusa a mia moglie, senza il tuo... Qua cerca di chiedere scusa in un modo abbastanza gentile. Senza il tuo supporto e quello dei miei bambini non sarei in grado di fare quello che faccio adesso. Ti amo. Ma quando torni a casa porta un anello con diamanti. E così ti riperdoniamo. No, questi sono gli effetti del lavorare tutti i giorni alacremente per il Team Sky, per Chris Froome in particolare. Sempre in Team Sky, esatto. Rimaniamo, perché uno dei protagonisti di domenica è stato il nostro Kwiatkowski, che è stato il protagonista del passaggio di ruota a Froome, ma anche protagonista di questa immagine dove lo vediamo stracolmo di borracce per il suo Darth Vader, ovvero per Chris Froome. E infatti questo fa parte del nostro bidon contest, forse l'ha già vinto, ma comunque è piazzato già bene. Guardate quante borracce ha, non riesco a contarle, ma è simile alla quantità di Samoy Lau al Giro d'Italia. Mi ricorda quella di Steph Clement alla Vuelta dell'anno scorso. Quella non me la ricordo come io carico invece di borracce. E oltre alle borracce, poi, Kwiatkowski è quello che ha cambiato, ha fatto il meccanico per Froome, perché ha cambiato la ruota, ha sostituito la ruota posteriore di Froome con la sua in un tempo rapidissimo, ed è tra gli artefici del recupero di Froome sul Col de Peyrataillade. Va bene ragazzi, è tanto bello parlare, tanto bello vedere i Twitter, ma è ancora più bello e importante ascoltare invece chi permette che tutto, certo, questo avvenga, ovvero diamo la parola al nostro spot Gli Orologi Sbagliati e ci inchiniamo. Inchiniamoci anche tu, Filippo, in ginocchio, su, andiamo. Gli Orologi Sbagliati arrivano del Tour de France. Nonno! Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku? Dai nonno, raccontamela! E va bene! Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... Avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850 80 90 60 70 80. Questa battuta era mia. Ma io sono piccola. No, non l'entusiasmo dei piccoli. Non ti sopporto. Ma perché non te ne vai al mare? Uffa. Porco mondo. Ma davvero, perché non se ne va al mare sta bambina? D'altra parte, dall'accento mi sembra sarda. Ma... il mare bello ce l'ha vicino ma casa. Ma quando hai la possibilità di avere un nonno che sa tutte queste belle storie sugli orologi, perché devi andare al mare? Giustamente, perché uno deve andare... molto più interessante. Vabbè, però sarà così. Rimaniamo in tema della nostra pubblicità, perché anche il Tour de France, avrete notato, certo, cerca di aderire, facendo gli agricoltori del Tour de France, diciamo dei luoghi attraversati dal Tour de France, hanno organizzato questo contest di balle di fieno che prendono la foggia di orologi, e per la nostra rubrica mucche e trattori ne vedremo alcune, quindi vai con lo stacchetto. Però per le mucche potevamo pensare uno stacchetto un po' più agricolo. Nei prossimi giorni bucolico. Ci penseremo. Questa è una delle prime immagini che analizzeremo, ovvero c'è una meravigliosa, un classico. Un grande classico. Una bicicletta che al posto delle ruote ha dei trattori che girano in carosello. Veramente qualcosa di un sublime. Classico ma sempre piacevole da guardare durante direi le dirette TV. Un classico sempre verde. Sempre verde, il caso di dire. No, non riesco a leggere bene la scritta, comunque inizia con contro la montre, che è contro il tempo. Sì, la cronometro. Che è come il cronometro, sì. No, ma si sono sbizzarriti alla grande quest'anno. D'altronde no. È un tour all'insegna delle mucche questo, perché ieri anche è stato annunciato il nuovo sponsor della Lotto Jumbo, che sarà la più grande azienda casearia del mondo, e hanno messo foto di mucche ovunque, per cui... Ma ce l'avranno pure sulle maglie, le speriamo mucche. Che la maglia sia pezzata, muccata. Bellissimo. Ce l'auguriamo, perché c'è, in realtà ho qualcosa da dire su queste maglie che mi sembrano tutte uguali. Orribili. Sì, tutte bianche, va molto il bianco quest'anno. Sì. E io che non vedo la differenza tra il giallo, il bianco e il verde, figuratevi come lo seguo. Ah beh, questo è il problemino quest'anno. Sì. Ma invece c'è quest'altra novità. Abbiamo un'altra immagine. Questa è un po' diversa. L'immagine di meravigliosissimi elicotteri, anche loro. No, aeroplani, non sono elicotteri, sono degli aeroplani. Sì. Dice elicotteri? Vabbè. No, sono aeroplani che formano anch'essi un orologio, e quello al centro con le ali fa le lancette. Volevamo... Ma si muoveva? Penso non di sì, sappiamo. Penso che stesse girando su se stesso per simulare il movimento delle lancette. Che bella la Francia. Non c'è niente di più bello di mettere a repentaglio, rischiare una strage per fare una grande coreografia per il Tour de France. Guarda, io penso che veramente di stimare tantissimo queste persone che organizzano questi bellissimi caroselli. Invece abbiamo come ultima immagine quella che ha catturato i nostri cuori, e credo anche i vostri, ovvero la clessidra. Ah, vabbè. Divisa, che divide sole e luna, e i cui granelli sono interpretati da pecore che scendono dalla parte alta a quella bassa della clessidra come se fossero granelli di polvere. Meravigliosa, questa potrebbe essere la vincitrice di questo contest sul tempo. Non ce lo permette lo sponsor, perché come sapete le clessidre sbagliate del Tour de France sono il rivale maggiore, però ci inchiniamo noi di fronte alla creatività della persona. Degli agricoltori dell'Alta Loira, se non leggo male. Bravi, il nostro personale applauso va a voi, ma anche all'altro nostro sponsor, ovvero Altrecin. Ok guys, 2 more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando i ginocchi. Altrecin. Tecnologia asburgica per i tuoi ginocchi. Anche oggi ci ha proposto Altrecin. Sì, Altrecin. Perché oggi è una tappa mista e il ginocchio il punto debole. Dici? Vabbè. Ma vediamo come sarà questa tappa. Esatto. E diamo finalmente la parola al migliore di noi, ovvero a Pietro Pisaneschi, che quotidianamente ci invia il suo la tappa che verrà. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 16ª tappa di questo Tour de France 2017 dalle Puy-en-Velay a Romain-sur-Isère per 165 km. Dopo il giorno di riposo, il Tour de France riparte per la sua ultima settimana di corsa, che incoronerà il vincitore della 104ª edizione. Grandi sconquassi alla classifica generale non dovrebbero avvenire nella frazione odierna, nettamente divisa in due parti attraverso le regioni dell'Alvernia e del Rodano, territorio natio di Romain. Romain Bardet. Due salite di terza e quarta categoria nella prima parte di corsa. Pronti via, il gruppo affronterà la Côte de Boussolet, 4.5 km, al 6.3% di pendenza media. Sali scendi continuo fino all'ingresso nel dipartimento della Droma, a circa 55 km all'arrivo. Da lì comincerà la seconda parte di corsa, che potrebbe concludersi con uno sprint a Romain-sur-Isère, città di tappa per la prima volta nella sua storia, con gli ultimi metri prima del traguardo in leggerissima ascesa. Le squadre di velocisti dovranno lavorare a fondo, soprattutto nella prima parte di corsa, per tenere al sicuro i propri capitani durante il sali scendi e soprattutto non lasciare andar via qualsiasi possibile fuga. Probabile che la Sky possa godere dunque di un altro giorno di riposo, facendo lavorare oggi altre squadre intenzionate a portare davanti a tutti la propria ruota veloce. Il favorito di giornata è ovviamente Marcel Kittel, che punta deliberatamente al record di vittorie di tappa in una singola edizione del Tour de France. L'obiettivo è quota 8 successi, l'ultimo a riuscirci è stato Eddy Merckx nel 1974. Per eguagliare il cannibale, Kittel dovrà vincere tutti e tre gli arrivi in volata che mancano da oggi fino a Parigi. È tutto per oggi, vi invito a seguire il post tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir. Insomma, Pietro, a parte essere al solito preparatissimo, assolutamente, e ottimo, è lanciatissimo su Kittel, oggi ha fatto un solo nome ed è quello di Kittel, che però punta deliberatamente, deliberatamente ha detto, al record. Però oggi non è detto che si arrivi in volata, perché ieri cominciavano a girare previsioni del tempo riguardanti il nostro amico vento. Allora, se c'è l'altro elemento del ciclismo dei nostri giorni è il terrorismo meteorologico e in queste ultime 24 ore si è veramente sbizzarrito. Vedevo anche stamattina dei tweet di corridori che disegnavano ciclisti e vento con delle emoticon su Twitter per promettere fuoco e fiamme, anzi vento e soffi da questa tappa. Si dice che la Valle del Rodano sia una valle estremamente ventosa, addirittura ho letto di raffiche a 70-50 km orari, quello che sia, chiaramente non lo sappiamo, sappiamo, come ci diceva Angelo, che la gente vuole vedere il vento. E vedremo il vento. Assolutamente, se no ci pensiamo noi come abbiamo fatto l'altro giorno. No, eviterei, fa già caldo così. No. Il vento, se arriverà, probabilmente sarà fonte di spettacolo e di divertimento. Vogliamo dire che il tour sta diventando realmente divertente. Da qualche giorno ormai lo diciamo, ma ricordiamolo che fa sempre bene. Sì, sicuramente stiamo vedendo il tour più interessante degli ultimi 3 anni, riflettevamo anche l'altro giorno con... Questo non era difficile, però io andrei anche oltre gli ultimi 3 anni. Aspettiamo l'ultima settimana, secondo me ci divertiamo, il vento ci farebbe divertire, però secondo me soprattutto alcune squadre, cioè quelle che poi col vento sanno giocarci bene, e in questo caso ci sarebbe senza dubbio la Quickstep, e quindi Daniel Martin. La Lotto Sudal sicuramente sarebbe una delle squadre di riferimento. In ottica uomini di classifica però mi viene in mente Daniel Martin, appunto perché sì, corre per la Quickstep, e Froome, la Sky in genere riesce ad affrontare bene queste situazioni, e Froome l'anno scorso nella tappa di Montpellier, se non sbaglio, guadagnò del tempo con Sagan e Bodnar e Thomas. Sì, più che altro, secondo me, più che le squadre e gli uomini di classifica, qui sarà di nuovo un grande esercizio di colpo d'occhio e di prontezza dei singoli uomini di classifica. Certo. E da questo punto di vista, spiace dirlo, ma quello che abbiamo visto l'altro giorno, insomma, Fabio Aru nell'arrivo in cui si è perso un po' indietro, magari ha imparato la lezione. È successo una volta, non esatto. È che... Cioè, subentri il discorso statistico, non è che una volta fa scienza, giusto? No, esatto, è un campione statistico molto piccolo. Molto piccolo. No, magari ha imparato la lezione. Nel ciclismo soprattutto si procede per lezioni da imparare, lui magari l'ha imparata. E va detto che poi l'Astana in realtà a livello di buoni passisti forse, Ne avrebbe sulla carta. Aru ha vinto una vuelta grazie ai gregari in pianura e non ai gregari in montagna. Beh, per cui l'unica cosa che mi auguro io è che questa cosa del vento non diventi lo psicodramma, che tutti parlano di una cosa che non c'è. Ma come no? Perché l'unico dramma che noi possiamo veramente permetterci in questa trasmissione è il dramma che ci suggerisce la nostra ottima Fiammetta Ruglio con i suoi resoconti. Oggi è sul posto. Dove è andata oggi? Oggi è Romain-sur-Isère. È andata proprio lì? Sì, è andata lì e ci racconta una storia. Vabbè. Io sono venuto in Sardegna per cercarla. Lei è in Francia. Cioè, abbiamo fatto questo investimento oculato. E... ci costa 1500 euro al giorno. Quindi pensa, spero che vi piaccia moltissimo la puntata di oggi dei Resoconti Ocra. Questa storia inizia a Romans-sur-Isère. Forse molti di voi si staranno chiedendo: ma dov'è Romans-sur-Isère? È in Francia. Alcuni si chiederanno: sì, ma dove esattamente? Nel dipartimento della Drôme. Sì. Potresti essere più specifica, si diranno talaltri. Grazie. Ebbene, allora dirò che Romans-sur-Isère è esattamente dove la terra incontra il cielo e il cielo incontra la terra. È proprio lì. Lì si trova Romans-sur-Isère, dove inizia la nostra storia. Brava. Lo sa bene Franceschiel, dall'animo attento e polarizzato. Brava. Franceschiel ha un sogno: brava, realizzare una collezione di scarpe e baguette da indossare e poi mangiare. L'idea sembra molto buona. A chi sembra buona? Forza, Franceschiel, disegna le scarpe, impasta la pasta, porta un progetto al comune, comincia a modellare i tuoi sogni. Vai! Ma purtroppo le leggi non scritte della società non hanno intenzione di arrestarsi di fronte alle corbellerie di nessuno. Grazie e ancor meno di un calzolaio panettiere. No! Dure e arroganti le leggi della società. Pare infatti che le scarpe di baguette, una volta indossate, siano immangiabili. Si sporcano di fango e polvere e si distruggono a causa del sudore dei piedi. Ma che schifo. Franceschiel perde il lavoro, perde la casa, perde la macchina, perde la famiglia e perde anche l'attenzione. Pure l'attenzione. Ora, negli occhi verdi e mielosi di Franceschiel, ci sono tante scarpe di pane e tanta malinconia giustificata. E mentre una lacrima si trascina sul suo viso, un airone zoppica nel cielo. Zoppica. Attonito. Brava. Zoppica l'airone. L'airone zoppica perché purtroppo le scarpe di Franceschiel non possono. Scusami, come prodotte. Si chiamava? Franceschiel. Franceschiel. È un nome tipico francese. Questa, di gran lunga la storia peggiore che ha trovato. No, questa, possiamo dire. Come? Ma dai, purtroppo, cioè, vedi Filippo. Ecco, sono venuto per due motivi: per trovare Fiammetta e per stroncare Leonardo, che ha è in guerra contro i sognatori, in guerra contro la fantasia. Ha in testa solo i numeri, solo i numeri. Diciamo no al realismo di Leonardo. Ma le baguette pantofole, no. Io la fantasia l'adoro, ma non. Ma non è vero. Sei tu che crei il ciclismo attendista. Sì, è vero. Io voglio dire a tutti i ragazzi del fan club di Leonardo Piccione di mettere dei numeri come simbolo, perché questo ragazzo pensa solo ai numeri. Non è vero, non lui è vero. E la sua maledetta statistica ai noi. Non è vero. Ma Fiammetta ce la farà. Ce la stroncherà anche questa statistica. Speriamo di no, ma invece leggiamo un paio di commenti. Assolutamente. C'è Luca che ci dice che per la successione a Zubeldia vede molto bene Mentis. Giustamente, l'allergia alle telecamere è la stessa. Sono abbastanza d'accordo. Sicuramente, secondo me, Manchester sarà il successore di Chris Horner. Di Horner? Quindi vincerà la Vuelta a 42 anni? Ma vincerà qualcosa a 42 anni. E invece Giacomo dice che Bardet ci butterà tutto e oltre. Speriamo in lui. E sento di condividere questa speranza. Dimitri invece spera in Uran. E abbiamo già detto che Uran potrebbe essere davvero il più pericoloso di tutti. Fabrizio dice finalmente le Alpi. Beh, anche prima non è stato un brutto spettacolo. Il Massiccio Centrale non sono stati due brutti giorni. In che tappa attaccheranno i big? Beh, domani, dopodomani, essenzialmente, mi viene da dire. Poi ma non c'è domani più. O dopodomani? Tutti e siamo due specifici. I giorni, soprattutto dopodomani, perché c'è l'arrivo in salita sull'Isoar. Quindi anche domani al mare, ragazzi. No, domani c'è il Galibier, il Telegraph, la Croix de Fer. Però invece, dalle interviste che giravano ieri, l'attesa è molto di più per il Galibier che per l'Isoar. Tutti si aspettano una tappa molto bloccata al giorno dell'Isoar, perché si difenderanno le posizioni. Lo stesso Contador ha lasciato capire che per lui la giornata è domani e non è quella dell'Isoar. Poi niente, domani arrivano, niente male, ragazzi. No, se arrivano sull'Isoar con i distacchi che abbiamo adesso, qualcosa sull'Isoar succede, secondo Poi me. Poi dipende cosa si intende per big. Certo, certo. Invece sulla tappa di oggi Alex dice: oggi comunque, per non dire sempre chi, Telbo a Sonaken. Diciamo Boa Sonaken. Io dico Christoph. Tu dici Christoph oggi? Vi ricordo che noi abbiamo in ballo il nostro pacco di pane Gutiao. Adesso che c'è anche Filippo può anche mangiarselo nel caso. Sì, sarebbe... No, vabbè, è importante. Vabbè, lo so che a voi mi interessa. Tu lo ricordi agli ascoltatori, no, che sono chissà se qualcuno... dove. Voi ascoltatori che se indovinate qualcosa fatecelo notare, venite qua, ci mangiamo insieme il pane guttiao, prendete un aereo per Cagliari e si può fare. Vabbè, come avete capito non abbiamo altro da dire, stiamo cercando di allungare i tempi come se fossimo andati corti oggi. Vabbè, no, se non abbiamo nient'altro da dire, possiamo salutarci. Ah, se volete, io andrei volentieri a bere qualcosa. Se tu sei d'accordo, Leonardo, io direi di lasciare la frase di chiusura alla novità di oggi. Certo, ci mancherebbe altro. Allora, Filippo, noi le iniziamo e tu la concludi come ritieni più opportuno. Per salutare tutti, diciamo che state col ciclismo, che il ciclismo sta sempre lì. Maspita, bella, aspita, cioè è venuto da Milano per dire sta cosa. Molto bella. Vabbè. A domani, circa alle 11. Ciao. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin.